Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai. Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12 e 14, cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie dalle frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa. E la settimana che si è appena conclusa è stata una settimana abbastanza movimentata per i conflitti sui luoghi di lavoro, particolarmente dalla giornata di mercoledì. E si è svegliato un attimo un po' il dibattito a livello nazionale su alcune questioni. Ricordiamo, tra l'altro dai microfoni della radio già se ne è parlato abbastanza, però ricordiamo che mercoledì c'è stata una carica ai danni dei lavoratori, degli operai della Thyssen di Terni, in una giornata che casualmente, diciamo così, fra virgolette, vedeva un presidio dei lavoratori appunto di Terni a Piazza Indipendenza, con un incontro che avevano in contemporanea al Ministro dello Sviluppo Economico. Gli operai della TRV di Livorno, anche loro nel pomeriggio di mercoledì, avevano sempre un incontro al Ministero, per il quale era stato anche organizzato un presidio di solidarietà da parte di compagni e compagne della città di Roma. E i lavoratori di Terni, arrivati in corteo sotto al Ministero dopo la carica, hanno prima incontrato i lavoratori di Marcinelle, anche loro in presidio sotto al Ministero. In seguito sono arrivati gli operai di Livorno, per cui diciamo c'è stata una giornata che ha messo al centro del dibattito queste tematiche, questi problemi di chiusura di stabilimenti anche abbastanza importanti, quindi si parla di centinaia e migliaia di lavoratori che vanno incontro a licenziamento, mobilità, cassa integrazione. E noi con questa puntata vorremmo iniziare a capirci qualcosina di più, anche perché è già da qualche settimana che parliamo della TRV di Livorno, non siamo fino ad ora riusciti a contattarli. Oggi invece ci stiamo riuscendo finalmente e abbiamo in linea proprio un lavoratore della TRV, e al quale chiediamo prima di tutto di spiegarci cosa è successo a partire dalle lettere di licenziamento, se non vado errato, per 413 lavoratori, che con l'indotto poi arriverebbero a 450 circa. E quindi che cosa ha fatto l'azienda per scatenare la reazione degli operai? Ciao a tutti, lettere di licenziamento non sono arrivate. È successo che noi ci siamo accorti nel giorno 15 di ottobre che c'era qualcosa che non tornava più in stabilimento, anche da notizie che ci venivano da altri stabilimenti che abbiamo in Italia. Lì c'è partito uno sciopero spontaneo dei lavoratori che ha fermato le lezioni e ha anticipato quell'incontro di venerdì 17 in associazione industriale, dove ci hanno comunicato che l'intenzione della multinazionale è quella di smettere lo stabilimento di Livorno. Chiaramente qui c'è stata la nostra reazione, abbiamo occupato, diciamo, Confindustria per diverse ore fino alla sera, dove siamo riusciti a portarli in prefettura per cercare di fare un accordo che ci durasse più possibile. Siamo arrivati a Roma quella giornata del mercoledì, c'era anche noi là, perché avevamo un incontro dove il nostro sindaco Novarino aveva dato aperture alla multinazionale per un eventuale nuovo stabilimento, per un anno di lavoro, quantomeno per organizzarsi e rendere appetibile lo stabilimento di Livorno per loro, per altre multinazionali. Questi hanno direttive di chiudere lo stabilimento, addirittura si parla di una chiusura nel 31 di dicembre, perché loro per ora hanno il contratto di solidarietà aperto, quindi non possono chiudere lo stabilimento prima che non chiudino, diciamo, il contratto di solidarietà. Quindi la chiusura è prevista il 31 di dicembre. Il governo lì ha puntato un attimino piedi, sembrerebbe che abbia voluto un incontro urgente con il grande capo della multinazionale, perché loro non erano in grado di poter vedere più là di un metro, e quindi abbiamo bisogno di parlare con gente che sia in grado di decidere. Questo incontro non abbiamo una data, detto che ci sarà tra 10-15 giorni, quindi noi siamo un'aspettativa, ma siamo anche arrabbiati in questo, perché vogliamo più visibilità, vogliamo essere più visibili, vogliamo un attimino essere anche più credibili, perché poi alla fin fine si parla di 10-15 giorni, e secondo me a livello organizzativo una data, un minimo di data dopo quello che sta succedendo, perché queste persone stanno mettendo dal giorno alla notte a casa 450-500 famiglie, perché qui non si parla di persone, si parla di famiglie, perché legate a queste 400 persone abbiamo mogli, figlioli, mutui, tutto il resto, tutta una situazione che ci mettono in grosse difficoltà, senza problemi, senza nulla, purtroppo anche dovute a mancanza di leggi in Italia che tutelano i lavoratori, più che altro. Allora senti, cerchiamo di capire anche prima di tutto di che cosa vi occupate voi sul lavoro, cioè che cosa fa questa multinazionale, perché comunque componentistica auto magari è anche un po' vago, per cui vorrei sapere per chi fondamentalmente la TRV lavora, cioè per chi è fornitrice, e soprattutto se questa chiusura che voi avete carpito, intuito, è dovuta a effettivamente una crisi di vendite, e quindi se è reale la necessità della multinazionale di chiudere, oppure se in realtà maschera un piano di ristrutturazione che va al di là di effettivi problemi economici, ma che cerca appunto di aumentare i profitti. Sì, allora noi facciamo idroguide, guide meccaniche, passe, cremagliere, creiamo praticamente lo sterzo, diciamo, delle auto, furgoni, soprattutto in maggioranza cliente Fiat. Noi siamo uno stabilimento con l'88% di produttività, cioè, è quella infatti proprio la cosa che ci ha fatto rimanere un attimino seri, perché noi a questa azienda abbiamo dato molto sacrifici, ci siamo tolti tanti diritti, tanti, da 10 anni che non rinnoviamo il contratto di secondo livello interno, perché l'azienda ci chiede sacrifici economici, non possono spendere, non possono fare altre spese, quindi siamo stati anche responsabili su questo, e poi ci hanno sempre detto che siamo bravi, belli, tutto sì, e poi alla fine ci stanno ripagando in questo senso qui. No, noi ci sono delle cose irregolari, che si sono scoperte, alcune cartacee sono già in mano a avvocati, che comunque vada, le nostre linee produttive sono state clonate, specialmente soprattutto in Spagna, non c'è stato molto chiaro dei movimenti di bolle all'interno del nostro stabilimento, che spostamenti dalla Spagna che non tornavano, questo chiaramente detto dall'aiuto dei tecnici e degli impiegati che ci abbiamo, che hanno collaborato con noi. Quindi è anche la stessa ammortizzatori sociali che hanno preso e usufruito dal governo italiano, non l'hanno usati per ricostruire e organizzare un futuro, ma per chiudere, anche questo è un illecito, perché loro avevano chiesto per ricostruire, riorganizzare e ripartire l'azienda, no? Per chiudere, certo, e comunque usufruire soldi, rubare soldi dallo Stato italiano. La situazione è questa qui. Quindi, per capire meglio, non si tratta di un calo della produttività, ma appunto anche forse probabilmente in risposta alla vostra mobilitazione c'è stato uno spostamento della produzione in un altro stabilimento, sì, o in altri stabilimenti. Sì, il che vuol dire che le linee produttive. Ok. Quindi fondamentalmente il problema della TRV non è problema di vendite, di forniture, ma è una volontà. Possiamo dirlo, sì, di ristrutturazione. Sì, è stata una volontà di riorganizzare il lavoro a Livorno da altre parti, sempre nella struttura TRV, anche perché hanno poi una vendita a livello mondiale, che c'è sempre l'antitrust nel mezzo con ZF, quindi non si sa bene anche lì che accordi c'è fra TRV e ZF, magari il ZF gli può aver detto che noi non si fa parte del pacchetto TRV, cioè non siamo molto a conoscenza del ruolo di ZF, cosa ci incastra, capito? Cosa ci incastriamo noi. Comunque è chiaro che noi si spera nel lavoro, si è sperato prima ieri nel lavoro, anche perché non è proprio un discorso come Terni da noi, che la fabbrica TRV che chiude si ferma la città, perché la fabbrica è legata a tutta la città, però si sta sviluppando un problema a Livorno come Terni, perché oltre a noi ci sono altre realtà come l'Eni, la raffineria e altre fabbriche che stanno chiudendo, cioè E qui poi alla fine diventa una città che non ha più entrate economiche a livello di comune, a livello di ospite, perché poi alla fine la gente si trova, noi ci troviamo senza stipendio dal giorno alla notte. Questo appunto passando alla vostra mobilitazione, visto che hai citato altri casi molto simili alla vostra situazione nella stessa città di Livorno, vorremmo sapere c'è un tentativo di muoversi collaborando con questi lavoratori? È stata espressa solidarietà nella vostra mobilitazione? Cioè state cercando di costruire una mobilitazione comune che cerchi di fare un fronte compatto rispetto a queste problematiche? E tra l'altro anche cerchi di fare anche un quadro magari un po' più ampio rispetto a mercoledì scorso, nel momento in cui vi siete trovati davanti agli operai di Terni, che prospettive, cioè come è andata, cioè, se avete chiacchierato, avete discusso con questi operai, perché comunque la situazione, nonostante facciate parte, comunque loro sono delle acciaierie, voi comunque di componentistica auto, il problema è lo stesso, cioè comunque avete discusso, cercato di comprendere insieme se è più fattibile, più plausibile fare una mobilitazione comune e invece di continuare a mantenere ognuno i propri appuntamenti, o non lo so. No, questo sì, cioè nel senso ci sarebbe la necessità, però vedi, qui dovrebbe coordinare un attimino i sindacati che non si possono fermare solo a semplice visite o di presenza o chiacchierate. Bisogna cominciare a agire nel senso di renderci visuali a tutta Italia che il problema che qui a livello mondiale è un attacco alla nostra nazione. Io ti dico, a livello locale vedo un attacco alla mia città. È chiaro, bisogna rispondere con la stessa maniera in cui ci attaccano. Se poi prendere le manganellate vuol dire in Italia avere la visibilità, siamo disposti anche a quello. Sicuramente noi a Livorno ora siamo concentrati nel farci dare una data di quel tavolo che è uscito fuori dall'incontro del 29, perché noi vogliamo una data. Quindi ora noi siamo concentrati a ottenere questa data, perché poi alla fine la visibilità ce l'hai se te la vai a prendere, no? Non trasporta nessuno, secondo me. Sì, appunto, su questa mobilitazione comune, su questa visibilità che cercate di avere, come state cercando di sviluppare? Anche, per esempio, scusami, rispetto... Abbiamo chiesto uno sciopero generale ai sindacati, che ci vuole. Siamo nella fase organizzativa di unificarsi magari con tutte le aziende di Livorno e vedere di trovare un obiettivo e trovare la strada per come sarà questa matassa qua. Okay. A livello nazionale bisogna che facciano sentire il problema che c'è in Italia, perché mi sembra che qui alla fine ci stanno portando via tutto piano piano. Senti, invece rispetto allo spostamento della produzione in un altro stabilimento, siete riusciti a contattare, avere un contatto con i lavoratori, anche eventuali sindacati della zona dello stabilimento, per portare appunto alla loro attenzione, quindi cercare di avere visibilità anche da quelle parti della vostra problematica? Senti, noi abbiamo avuto inizialmente dei contatti, perché abbiamo un ragazzo di Livorno che è laggiù, però all'inizio hanno un po' parlato, ma i lavoratori non sanno neanche quello che sta succedendo, poi fondamentalmente che magari stanno facendo delle produzioni che prima erano nostre e ora sono passate a loro, quindi no, come può essere visto come mi stanno rubando il lavoro, ma loro non hanno colpa di niente. Il problema è che c'è stata una decisione a livello mondiale di chiudere Livorno, ma credo che questo sia un inizio per l'Italia. Un stabilimento di RV di Livorno sia un inizio per poi andare a piano piano a pianificare anche gli altri, perché credo che in Italia non ci siano più le condizioni per venire a investire. Se non si creano diventa un problema. E chiaramente, se manca la voglia, la forza di contrastare queste scelte di ristrutturazione, chiaramente andranno avanti a sprombattuto, e un po' come dicevi te, visto che questa è la tendenza, andranno avanti a sprombattuto non incontrando appunto resistenze. Per cui ci sembra fondamentale la lotta che avete messo in campo voi come a Terni, come in tantissime altre città italiane. Io facevo questo accenno all'altro stabilimento nello stato spagnolo dove hanno trasferito la produzione, perché evidentemente cercare di ottenere anche una solidarietà, hai detto benissimo, non è assolutamente colpa né responsabilità dei lavoratori, chiaramente, però appunto ottenere una solidarietà da parte loro può forse dare a voi la possibilità di avere un minimo, non dico un potere contrattuale maggiore con la TRV, però un po' di forza in più magari sì. Secondo me noi ci abbiamo la forza nel tavolo contrattuale, basterebbe fare uscire un attimino le cose che la TRV non ha fatto nella maniera, nelle regole, nelle leggi che abbiamo in Italia, dove ha cercato di anche questa, cioè, ragazzi, di prendere sotto banco e creare altre nuove linee, le stesse linee da altre parti per levante produzione, mi sembra che sia un reato non indifferente. Poi uno può anche non essere produttivo, quindi non va più e devi essere chiuso, siamo d'accordo, ma io fino a ieri mai venduto una produttività al 100% da poco, e oggi mi viene a dire che la corsa qui è finita. Cioè, secondo me c'è del reale, bisogna far valere le cose qui a livello sindacale, a livello politico, a livello forse anche giuridico, perché poi alla fine chi sbaglia è giusto che paghi. Senti, scusa, diciamo, facciamo una considerazione conclusiva. Noi dopo di te volevamo sentire anche un lavoratore dell'AST di Terni, proprio perché pensavamo, riprendendo un po' quello che hai detto tu, che in questo momento stiamo assistendo a un complessivo attacco al mondo del lavoro. Quindi le situazioni che stiamo vivendo e che stiamo adesso osservando con le varie lotte operaie, le varie piani di ristrutturazione o le politiche governative di riforme del mercato del lavoro, è in generale, possiamo dire, che è qualcosa di complessivamente che riguarda appunto il mondo del lavoro, è un attacco al mondo del lavoro. Ci sembra a noi, il nostro punto di vista è che bisogna un po' ricomporre tutti i diversi pezzi del mondo del lavoro e dare una risposta unitaria a questo attacco al mondo del lavoro. Già come è stato ricordato in precedenza, il mercoledì diverse azioni fatte a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico di diverse realtà che stanno lottando nei propri luoghi di lavoro, poi hanno, diciamo, tendenzialmente stessi problemi, tendenzialmente stessa condizione, quindi sicuramente un'unità rispetto a queste singole situazioni porterebbe a rafforzare le singole situazioni di lotta. Quindi anche lo spirito di questa trasmissione, sentendo voi di Livorno, all'AST di Terni, successivamente sentiremo anche i lavoratori della Titan di Bologna, un pochino hanno questo spirito di provare a mettere in interconnessione le diverse lotte che ci sono, e ce ne sono tante in questo momento di crisi nel territorio nazionale, e però forse sono un po' isolate e scollegate. Tu hai fatto l'esempio di Terni, ricordando che appunto Terni comunque alla solidarietà di una città, proprio perché poi la base di quella città è rappresentata dall'acciaieria. Detto questo, in tutta Italia ci stiamo confrontando con diverse lotte, il nostro augurio, il nostro invito è quello di incominciare a interconnettere queste lotte. Evidentemente ci vuole un lavoro, come ricordato, sindacale, però diciamo anche l'impegno di tutti i lavoratori, anche diciamo momenti come quello di mercoledì in cui voi, i lavoratori stessi, i protagonisti di queste lotte, si possono confrontare provando a avviare un percorso comune, ci sembra la soluzione in questo momento più adeguata. Sono d'accordo con te. Va bene, penso che, visto un po' i tempi della trasmissione, possiamo salutarci. Ti ringraziamo del collegamento, ci hai chiarito un pochettino la situazione. Grazie a voi della visibilità che ci state dando in questo momento qui. Beh, questo per noi è un dovere, appunto perché Corrispondenza Operaie si occupa proprio di questo, e appunto ti ringraziamo e vi auguriamo il meglio e un prosieguo della lotta, cercando di andare sempre avanti e conquistare di più. Ok, magari poi ci risentiamo. Esattamente, ci risentiremo sicuramente in futuro per capire gli sviluppi. Va bene? Va bene. Ciao. Va bene, okay, grazie, ciao, buona giornata. Dalla scocca è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena, neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ma alla fine settimana il riposo ci fa bene. Noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. La 1100. Hai lasciato la catena, un bicchiere di vino buono ti ridà tutto il calore, trovi la tua donna, fai l'amore. Sei già pronto per partire, spegni tutte le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto la carne per 3 giorni e insieme a una Torino abbandonata trovi la tua macchina bruciata. La 1100. La 1100. E torniamo in studio e come annunciato abbiamo in collegamento un lavoratore dell'AST di Terni, delle acciaierie di Terni. Appunto, come ricordato all'inizio della trasmissione, la scorsa settimana, mercoledì, c'è stata una visibilità mediatica dopo gli episodi di piazza, dopo gli scontri di piazza, rispetto appunto alla lotta portata avanti dai lavoratori dell'AST di Terni, una lotta che però è iniziata sicuramente prima di quella giornata e non si è fermata a quella giornata. Quindi noi adesso siamo in collegamento con un lavoratore per farci raccontare un po' il proseguo di quella giornata, ma anche la situazione più in generale. Ci senti? Sì, pronto, ciao. Ok, senti, allora, noi ti abbiamo contattato per appunto parlare non tanto della giornata di mercoledì, che già ha avuto una sua risonanza mediatica, sicuramente se vuoi fare un accenno anche a quella giornata che ha visto delle pesanti cariche in piazza agli operai che volevano partire in corteo, però un pochettino, diciamo, volevamo con te analizzare la situazione dell'AST di Terni più in generale, che vede appunto un piano aziendale in cui è previsto più, se non sbaglio, di 500 lavoratori in esubero, in cui c'è stato già un blocco degli stipendi, una situazione abbastanza grave che subiscono i lavoratori. Ci puoi un po' sì. spiegare? Sì, questa hai detto bene. La multinazionale Notiz Group ha presentato un piano noi diciamo finanziario, non industriale, per ridurre i costi accumulati, 100 milioni di debito secondo loro nell'arco di 5 anni. Un piano che prevede 570 esuberi, il ridimensionamento delle linee di una linea fusoria, quindi la chiusura di un forno, e un piano che non ha prospettive future, visto che si basa soltanto su taglio del licenziamento dei lavoratori e taglio del salario, ci hanno proposto anche una riduzione di 15 milioni di euro sui contratti integrativi, quindi sui contratti migrativi. Noi diventeremo il primo stabilimento siderurgico che guadagnerebbe intorno alle 1300 euro un turnista che lavora ai forni sui posti di Saggiari. Noi questa è una battaglia che portiamo avanti ormai da più di due anni, perché prima eravamo ThyssenKrupp e siamo stati acquistati dalla finlandese Outokumpu, un'altra multinazionale, poi a causa della commissione antitrust che ha detto che noi sforavamo sul 40% dei volumi, quindi della capacità produttiva, ci hanno negato il passaggio Outokumpu e siamo tornati a Thyssen ha riannunciato che non era più strategico l'acciaio inossidabile per la multinazionale, quindi ha detto che faceva un piano industriale per ridurre i costi e ci avrebbe rimesso in vendita. Oggi siamo in questa situazione, 570 esuberi, taglio del salario, chiusura del taglio del salario e chiusura di una linea fusoria, quindi per Terni sarebbe un disastro, perché noi siamo circa 4.000 lavoratori tra diretti e indiretti. L'acciaieria produce quasi il 20% del PIL umbrio, come acciai speciali produciamo il 40% della produzione acciaio speciale in Italia, quindi noi per la nostra regione, per la nostra città sarebbe un dramma. Noi siamo ormai sciopero oltranza da quasi 15 giorni, abbiamo fatto il blocco delle portinerie, il blocco dell'occupazione del comune, il presidio in prefettura, siamo arrivati a una situazione che l'azienda addirittura ci ha negato il pagamento degli stipendi, quindi siamo anche senza stipendio con la infatti, minaccia. Scusami, ci puoi spiegare un attimo meglio questa situazione? Leggevo un po' velocemente nei vari siti che c'è stato questo blocco degli stipendi a causa dello sciopero, in un certo senso. L'azienda no? ha motivato a causa dei blocchi delle portinerie, i picchetti davanti alle palazzine, non è stato in grado di pagare gli stipendi, quindi di fare le buste paga e di far lavorare gli addetto a appunto alle paghe, quindi a causa di questi nostri picchetti ha messo fuori un comunicato che non poteva pagarci lo stipendio di ottobre, e in un secondo momento ha messo fuori un altro comunicato che diceva che soltanto allo sblocco delle portinerie e rientro in fabbrica ci avrebbe pagato lo stipendio. Questa cosa non ha fatto altro che far arrabbiare ancora di più, perché ora su una normale battaglia l'azienda dei lavoratori ci può stare di tutto, però quando uno deve anche attaccare la dignità, perché non pagare lo stipendio, ricattare che se rientriamo blocchiamo gli scioperi, ce lo paga, ha fatto ancora più che arrabbiare i lavoratori, quindi abbiamo deciso di continuare lo sciopero a oltranza, continuiamo con l'occupazione del comune, con il blocco delle portinerie, e adesso domani, oggi partiremo anche per Bruxelles con 200 lavoratori, andremo a Bruxelles dove secondo noi è un altro punto strategico dove protestare, perché a causa della Commissione Europea ci troviamo in questa situazione. Sinceramente il clima è teso, perché poi l'azienda capeggiata dal ministro delegato da Morselli, Lucia Morselli, quella che stava anche alla Berco, sta facendo delle azioni provocatorie tutti i giorni, non paga gli stipendi, si è presentato una notte alle una davanti ai picchetti in fabbrica, lì soltanto la responsabilità di chi stava lì, non è successo niente nei suoi confronti, che secondo me era quello che cercava, la provocazione nei confronti dei lavoratori. Ha fatto una richiesta di ditta terza di un 20% della riduzione dei costi del lavoro, quindi ditta terza che sono i lavoratori più indifesi, perché comunque l'indotto che è molto grande in AS, la socialità, è composto da due o tre ditte con più di 200 lavoratori, il resto tutte ditte delle piccole, quindi una richiesta del genere chiederebbe subito riduzione dei lavoratori con licenziamenti, riduzione dei salari. Sta facendo provocazioni continue con la speranza che si spacchi il fronte dei lavoratori, fronte sindacale, e avere l'occasione di poter rientrare in fabbrica. Noi questo non lo permettiamo, poi tutti gli attestati sindacali che cerchiamo tutta Italia, noi ogni giorno ci arriva un comunicato da altri lavoratori in lotta, da altre realtà, penso che questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti anche se con sofferenza, perché non prendere lo stipendio, sono famiglie che non riescono anche a fare spesa, però abbiamo attivato anche un fondo di solidarietà tra di noi, dove ci aiutiamo a andare avanti la giornata, quindi mollare adesso questa battaglia secondo noi sarebbe anche mollare un po' l'unità di tutti i lavoratori che stiamo riuscendo a portare intorno a noi tutta Italia, quindi abbiamo deciso di in assemblea davanti alla fabbrica di andare avanti, di continuare, e cercheremo di andare avanti il prima possibile. Ora giovedì abbiamo un incontro al Ministero dove l'azienda si è presa l'impegno di modificare questo famoso piano, vedremo giovedì se le modifiche sono vere, se sono effettivamente scritte su carta, perché ormai sono mesi che ci promette sia l'azienda che il governo che verranno fatte modifiche, ad oggi ancora siamo in situazione di un anno fa. Hai detto che andate a Bruxelles, no? Insomma, sì. Finalmente questa scelta arriva soprattutto dopo un po' di anni. Noi anche da questa radio ne abbiamo parlato più volte di quella che è la scelta della produzione dell'acciaio rispetto alla sua divisione internazionale e le scelte che vengono fatte a stavolta su questo, perché insomma dall'Alcoa all'Ilva di Taranto a Piombino, a voi lì a Terni, a Trieste, insomma, se ne vogliamo dire molte altre. Sì, sì, è chiaro che volevo fare aggiornamento qua, no? Per cui è chiaro che un processo di svendita delle acciaierie a alla Mittal, agli austriaci, in parte ai russi, eccetera, sono processi di svendita che non portano una produttività maggiore, ma ad una chiusura di questi stabilimenti. Quindi c'è anche un disegno dietro che è abbastanza chiaro, no? La vendita ad alcune ad alcuni colossi austriaci in particolare e russi porta alla chiusura di fatto di alcune fab, di alcune acciaierie, e questo qua è chiaro che con le scelte doganali fatte dall'Unione Europea rispetto invece all'integrazione della produzione dell'acciaio dalla Cina soprattutto, eccetera, è chiaro che insomma c'è un disegno europeo, di scelte politiche ed economiche europee, e che se non si va ad affrontare questo nodo qua è chiaro che le lotte rischiano di chiudersi dentro alla questione, diciamo, locale, no? L'abbiamo visto con l'Alcoa soprattutto, purtroppo, che lì dopo anni di lotta a un certo punto non sono riusciti più ad andare avanti, perché c'era la questione da un lato energetica, dall'altro lato appunto sulla produttività. Ricordiamo, insomma, l'acciaio è una delle materie prime che serve a sua volta alla produzione di molte altre industrie manifatturiere. Quindi è chiaro che lì ci stanno scelte politiche internazionali, e andare a Bruxelles è un punto importante. Lo dovreste, a mio parere, insomma, cercare di allargare anche alle altre acciaierie in Italia questa scelta. Questo era un disegno effettivamente che c'era, io almeno l'avevamo sentito come fiomi, di andare in Europa come realtà siderurgica italiana, effettivamente, perché comunque, come ha detto bene te, questa è una politica europea basata sulle questioni che ti hai specificato bene. Quindi la politica europea che non permettono ora parliamo d'Italia, alle nostre aziende siderurgiche di avere sviluppo e di avere un futuro, più le politiche del governo italiano che vent'anni a questa parte non hanno fatto niente per l'industria e per la siderurgia, sono due cose che stanno mettendo in ginocchio un intero sistema, come dici te. Quindi è un problema di Terni, ma è un problema di tutte le realtà che tu hai nominato bene, Taranto, Piombino, Trieste, tutte realtà che, certo, unite insieme avrebbero ancora di più una forza, una visibilità per cercare di contrastare pure queste politiche, sia europee che del governo italiano. Noi ci auguriamo che da questa nostra lotta si possa iniziare veramente, più che a parole, a compiere dei fatti concreti su questa unione. Noi ci contiamo, ci speriamo, e appunto anche il non mollare adesso, secondo noi, è importante, perché nonostante i sacrifici, nonostante le difficoltà economiche che ci abbiamo, però mollare adesso sarebbe, secondo noi, anche mollare una possibilità di unirci tutti insieme. Quindi cercheremo di andare avanti, cercheremo di resistere il più possibile, augurandoci che giovedì ci sia anche un passo avanti del governo che si imponga a questa multinazionale altre scelte. Prima non l'ho detto, se passa questo piano a Terni, secondo noi passa anche il principio che le multinazionali possono scambiare il salario per posti di lavoro, perché questa è stata una richiesta fatta ben precisa, più salario italiano e meno lavoratori licenziati. Noi pensiamo pure questa idea non può passare, perché sarebbe veramente lasciare campo libero alle multinazionali, nonostante oggi, anche oggi in Italia non ci siano leggi ben precise che possano ostacolare le loro politiche. Quindi questo sicuramente è il punto che dobbiamo mantenere. Allora sì, diciamo, noi condividiamo questo tuo punto d'analisi, diciamo in più che appunto secondo noi la lotta che state portando avanti è molto importante per la città di Terni, perché come hai ricordato tu, l'acciaieria di Terni rappresenta buona parte dell'economia di quella città, ma è molto importante per tutto il contesto nazionale che, come da questi microfoni ricordiamo più volte, stiamo vivendo un momento di complessivo attacco al mondo del lavoro. Noi ti ridico anche a te quello che ho detto prima al lavoratore di Livorno, che abbiamo sentito in precedenza della tribù di Livorno. Poi stavamo iniziando insieme a protestare. Esatto. Mercoledì vi siete ritrovati tutti là sotto al ministero. A noi ci sembra che appunto, se stiamo subendo in generale un complessivo attacco nel mondo del lavoro, è giusto che si ricomponga questo mondo del lavoro e che prova a lottare tutti insieme. Questo può dare forza alle singole poi vertenze locali. Quindi con questo augurio ti volevo chiedere, tu hai detto che giovedì c'è un altro incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, se non sbaglio. Sì, ecco, andremo ci sarà... giù anche come lavoratori con presidio, quindi è previsto anche un presidio. È previsto anche un presidio, quindi? Sì, sì, stiamo organizzando il punto, non so quanti ce ne saranno, però per il presidio lo facciamo privamente. Va bene, ci dici l'orario dell'incontro, così magari lo annuncio. Guarda, dovrebbe essere di mattina, intorno alle 10, penso. Dovrebbe essere intorno alle 10 di mattina, comunque se non sono le 10 sono le 11, mezzogiorno, ma in mattinata. Perfetto, quindi un invito anche a portare solidarietà alla lotta, alla vostra lotta. Magari. E quindi facciamo un invito da questi microfoni, ti ringraziamo, sei stato molto chiaro. Grazie a voi per la possibilità, speriamo di sentirci presto. Ci risentiamo sicuramente, ci aggiorniamo e buona continuazione di lotta. Grazie ancora, grazie a te, anche a voi, ciao. Sì, io so chi è stato. M'hanno tolto la speranza nella stanza, resta solo un vuoto immane, resta il solco dello squarcio di un dolore infame. Per chi rimane è il netto di un verdetto senza appiglio, mai dovrebbe un padre sopravvivere ad un figlio. È un giglio deposto al capezzale, non placa tutto il male, l'ha ucciso un'altra volta quel giornale. Ma quale morte accidentale, quanto vale questa morte per la corte al tribunale? Non è normale, qua si muore anche di stato, le guardie l'hanno ucciso senza l'ombra di un reato. Cancellato dalla stampa, calpestato da un'indagine che arranca, neppure il suo ricordo mi rinfranca. Sapeste quanto manca, sapreste del mio sogno senza pace, steso sull'asfalto un corpo freddo che non tace, giace sul torace con i manettati. Ora grida la giustizia nei suoi occhi depredati. Ok. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti, di nome Federico, di cognome Raltrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti, di nome Federico, di cognome Raltrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? L'ho cercato al cellulare, l'ho cercato in ospedale, l'ho cercato giù in questura e non volevano ascoltare. A quanto pare nessuno ebbe il coraggio di spiegarmi che un giorno come gli altri era il più grande dei miei drammi. Dammi soltanto una ragione, dammi tu la spiegazione. Crepare a 18 anni senza appello né cauzione. La questione, difendersi da un codice corrotto, sei vero criminale, poliziotto. È verità che voglio adesso, il senso di un processo, gridare a una città che dorme quello che è successo. Adesso che osservo gli imputati messi al banco, scorgo l'arroganza di chi è forte solo in branco. Al mio fianco un'intenzione coraggiosa, la memoria ha un peso e la sua forza è contagiosa. Al mio fianco, un'intenzione coraggiosa, perché tutto questo non accada ancora. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti, di nome Federico, di cognome Raltrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti, di nome Federico, di cognome cognome era Altrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? Chicco Altrovandi. Omicidio di Stato, Gabriele Sandri. Omicidio di Stato, Aldo Pianzino. Omicidio di Stato, Carlo Giuliani. Omicidio di Stato, Marcello Lonzi. Omicidio di Stato, Stefano Cucchi. Omicidio di Stato, per tutte quelle morti che nessuno sa chi è stato. Io so chi è stato. Omicidio di Stato. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico e di cognome era Altrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome era Altrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Torniamo in studio, come ultima corrispondenza siamo collegati con un lavoratore della Titan di Crespellano, vicino Bologna, un compagno del Sicobas. Noi già lunedì scorso abbiamo un po' raccontato la vicenda della Titan, che ricordiamo, dopo l'annuncio della chiusura della fabbrica, dello stabilimento, gli operai in risposta per contrastare questa chiusura hanno occupato la fabbrica, hanno programmato un'assemblea permanente. Adesso volevamo fare un aggiornamento, siamo in collegamento con un compagno del Sicobas, ci senti? Sì, pronto? Salve. E niente, insomma, se ci puoi un po' aggiornare degli ultimi sviluppi rispetto alla situazione della Titan, e poi magari passiamo a fare un ragionamento più complessivo. Allora, niente, noi abbiamo fatto dal 17 ottobre, siamo partiti con il blocco merci, perché il 16 ottobre la multinazionale, che noi siamo produttori di cerchioni di trattori, ci ha praticamente fatto vedere questa slide in cui il loro progetto industriale era di chiudere lo stabilimento. Ed era uno stabilimento che lavora con un altro stabilimento a 38 km da noi, che è a Finale Emilia, che completa la lavorazione. Quindi noi facciamo il cerchio e loro lo saldano intorno all'anello e poi ci mettono la gomma del trattore. Adesso non la mettono neanche più perché se la sono ripresi i clienti. Niente, noi dal 17 ottobre, il giorno dopo di questo annuncio, abbiamo bloccato le merci. Con un'assemblea dei lavoratori ci siamo presi questo mandato di blocco delle merci. Poi siamo rimasti a lavorare dentro, perché comunque, essendo ancora dipendenti e non licenziati, perché ci aspettavamo che la richiesta di licenziamento venisse il lunedì dopo per tutti i dipendenti, perché ce l'avevano annunciato al tavolo, noi abbiamo comunque preferito lavorare, però bloccando tutte le merci. Quindi comunque abbiamo fatto un blocco merci di 15 giorni, perché dal 17 ottobre a giovedì scorso più o meno una quindicina di giorni. Hanno provato a portarci via, perché produciamo anche in un reparto, produciamo dei freni, hanno tentato di far venire dei camion, forzare lo sblocco, però comunque siamo riusciti a mantenere il blocco. Diciamo che a livello di fabbrica siamo 186 operai, una ventina di impiegati, 160 operai, eravamo comunque tutti uniti a difendere questo blocco, perché dovevamo difendere lo stabilimento. Abbiamo votato una piattaforma, una nostra indicazione, una nostra linea, che era quella di avere un piano alternativo rispetto alla chiusura dello stabilimento di Valsamoggia, e in cui diceva, perché comunque noi praticamente non siamo una fabbrica in fallimento, siamo una fabbrica di cui il padrone si è attrezzato ad acquistare le nostre produzioni in Cina, perché costano di meno, e a delocalizzare parte della fabbrica in Turchia. Quindi praticamente tutte le nostre produzioni, che poi devono venire saldate a Finale Emilia, sono state sostituite tra gli acquisti in Cina e la delocalizzazione in Turchia. Noi ci siamo opposti a questa cosa qua e siamo andati avanti su questo. Per farla breve, la nostra lotta è stata intransigente e determinata, eravamo tutti uniti, però poi al 31 ottobre abbiamo avuto un tavolo in regione. Questo tavolo in regione, come se non fosse successo nulla di che, i sindacati, cioè la FIOM, ha cominciato a dire che c'è stata un'apertura da parte dell'azienda, di cui questa apertura non c'è stata, perché praticamente l'azienda ha solo detto che per la questione occupazionale poteva trovare delle soluzioni. quindi diciamo sull'impatto sociale rispetto ai 186 dipendenti l'azienda era disponibile a trovare delle soluzioni. Alla regione si era conclusa così, però non era questo il programma per cui andare al tavolo. Il programma era, cioè la nostra piattaforma era mantenere la fabbrica, non era trovare delle soluzioni alternative. Invece hanno stato, diciamo, da parte della Fiume è stato già stravolto questo mandato. Poi la mattina dopo si è organizzato frettolosamente, cioè questo sabato qua passato, si è organizzato frettolosamente un incontro di nuovo con la direzione per parlare più dettagliatamente rispetto a questa diciamo apertura tra virgolette, che apertura non è per quanto mi riguarda, rispetto alla questione occupazionale, e ci hanno detto che sono disponibili ad incentivare gli operai per andare a lavorare a Finale Emilia e che sono disponibili a incentivare gli operai per licenziarsi. Era questa l'apertura, solo che la FIOM ha tradotto questa apertura come una questione buona perché difendevano i posti di lavoro, però noi fin dall'inizio avevamo detto che noi non difendiamo i posti di lavoro, noi difendiamo lo stabilimento, perché pensiamo che il nostro futuro sia mantenere la fabbrica aperta, perché fuori se tu vai a lavorare a Finale Emilia oppure ti garantiscono che ti troveranno un altro posto di lavoro se non accetti la mobilità, comunque è precario. L'unica nostra certezza, per così dire, che poi comunque certezza futura non sarà, visto che viviamo in un momento di crisi più mondiale, però l'unica certezza per poter vivere ancora di più del nostro lavoro salariato era mantenere questa fabbrica aperta, perché mantenerla aperta vuol dire poi costringerla magari a fare altri investimenti. Senti, noi, quando allora... il sindacato sabato mattina ti arriva, lo stesso sabato ti arriva in fabbrica e ti dice, va dai lavoratori, li riempie di ricatti, perché dice se non si fa un accordo sulla questione occupazionale, che è poi dopo l'alternativa no, che poi potrebbe far, cioè che fa chiudere lo stabilimento mantenendo solo quella piccola produzione di freni che noi abbiamo, alla fine questo qui vuol dire che tu vieni in assemblea dei lavoratori e dici se non facciamo un accordo vuol dire che l'azienda può fare dei trasferimenti blocatori a Finale Emilia, se non facciamo l'accordo il 2 gennaio che scadono i 75 giorni di richiesta di licenziamenti può essere che noi saremo licenziati senza nessun contributo in più, senza nessuna garanzia in più. Quindi tutte queste qua sono forme di ricatto che poi andando in assemblea il sindacato le propone, cioè la FIOM le propone, è normale che vai a disunire l'unità e l'equilibrio di unità che noi avevamo fino al giorno primo, e questo è il punto. E certo, quindi oggi noi... ci troviamo in una fase di sgretolamento, nell'arco di 2 giorni ci siamo trovati in una fase di sgretolamento in cui gli operai non capiscono se difendere lo stabilimento o difendere il posto di lavoro, questo è il punto. Certo, noi quindi... pensiamo come delegato Sicopas, come operaio della Titan, io penso che oggi gli operai non devono difendere il posto di lavoro, ma devono difendere lo stabilimento, devono difendere i macchinari, perché se tu non difendi i macchinari e non difendi lo stabilimento, fuori da quella fabbrica in cui tu stai già lavorando non hai più niente, hai solo miseria e non hai più futuro. E poi per contrastare politicamente anche il fatto che una multinazionale possa fare di 180 famiglie o 200 famiglie o 1000 famiglie quello che gli pare solo perché da un giorno all'altro guadagna di più spostando le produzioni da un punto all'altro, è una cosa in cui tu ti devi opporre come operaio, come proletario, come facente parte di una certa classe, ti devi opporre a queste decisioni. Se non ti opponi pensando ai rischi in cui puoi incorrere, vuol dire che non siamo ancora pronti a lottare e a contrastare queste azioni padronali. Questo è il punto. Esatto. A quanto senti, sembra, scusami. Gli operai, nonostante noi siamo una fabbrica che è nel territorio bolognese, abbiamo fatto anche, abbiamo dato spesso esempi rispetto alle lotte, perché anche dalla segreteria della CGL, della FIOM, sanno che comunque in Titan gli operai hanno sempre lottato uniti, si sono sempre opposti sulle lotte, sono stati sempre la fabbrica più combattiva del territorio. Con queste azioni qua arriveranno che ci massacreranno di ricatti e arriverà che noi non riusciremo più a difendere questo stabilimento, e quindi questo stabilimento chiuderà e noi saremo fuori in mezzo alla strada, in mezzo alla miseria che ci aspetta. Senti, allora, noi ci sembra importante questo, diciamo, tuo ragionamento. Noi la scorsa settimana, analizzando un po' la questione aziendale della Titan, era emerso il punto che un po' facevi presente tu, che siamo di fronte sempre con la scusa della crisi, l'azienda delocalizza in un'altra parte e tutto per finalizzato poi a abbassare le condizioni di lavoro in Italia. Diciamo, c'è un piano complessivo che vede comunque il mondo del lavoro complessivamente sotto attacco. Evidentemente tu hai fatto bene a, diciamo, mettere in evidenza come poi alcuni sindacati confederali, in particolare i vertici, diciamo così, sindacali, siano più interessati a comunque fare un accordo, qualsiasi esso sia l'accordo, senza andare a vedere poi concretamente che cosa può produrre quell'accordo. Diciamo che ci tengo a fare una precisazione politica importante, perché poi alla fine questa qui sicuramente sarà anche una denuncia alla FIOM, perché la FIOM comunque da 20 anni minimo, ma forse anche da prima, sta lottando e sta facendo contratti nazionali anti-operai e non fa niente anche contro tutti gli attacchi patronali, perché a partire per esempio anche dall'articolo 18 Landini dice che bisogna scioperare e occupare le fabbriche, ma non si fa niente. L'articolo 18 ce lo stanno togliendo, punto e basta. Ma la colpa essenziale non è solo del sindacato, perché un sindacato che rema contro la lotta di classe, e quello lì potremmo essere anche coscienti, non è tanto neanche il sindacato confederale rispetto al sindacato di base, che probabilmente può essere più combattivo. La questione è che manca proprio la coscienza di classe negli operai, manca quella coscienza degli operai che dicono che bisogna difendere le fabbriche, bisogna difendere gli stabilimenti, che bisogna attaccarsi ai macchinari, perché noi siamo attaccati ai macchinari, se ci tolgono i macchinari noi non possiamo più essere sfruttati poi tra l'altro, e salariati, e poter sopravvivere. E questo è il punto essenziale. È ovvio che i sindacati marciano su questa linea, sanno che non sono pronti, non sono coscienti fino alla fine, e quindi comunque tendono a, diciamo, ad avere un impatto sociale meno doloroso, lo chiamano lui, che poi doloroso è. E questo è il punto. Se ci sono 180.000 tavoli di crisi in Italia, non è perché solo perché i sindacati fanno morire le fabbriche nel silenzio, è anche perché gli operai non sono pronti a lottare, gli operai non stanno capendo quello che gli sta succedendo. E questo è il punto essenziale. Manca una coscienza di classe che possa veramente unire tutte le vertenze, fare delle... Arriviamo, perché comunque rispetto a 5-10 anni fa non sono più manganellate gli studenti, ma sono manganellate gli operai. Però non siamo ancora pronti ad affrontare un impatto sociale veramente in cui ci vorrebbe un'unità di classe. Guarda, c'hai ragione, noi condividiamo questo ragionamento. Evidentemente ci stiamo confrontando in una fase, con una fase molto difficile, dove se da un lato manca quella che giustamente tu chiami la coscienza di classe, la coscienza degli operai, dall'altro c'è una crisi che si fa sempre più forte, ci sono 1000 tavoli di trattative, ci sono 1000 situazioni emergenziali in tutta Italia, e ci sembra, visto che comunque dobbiamo partire, dobbiamo riniziare quantomeno a ricreare questa coscienza, bisogna fare un tentativo di unire tutte queste lotte. Noi oggi con questo spirito abbiamo fatto questa trasmissione, prima di idea abbiamo sentito un lavoratore della DRV di Livorno e un lavoratore dell'AST di Terni, proprio perché mercoledì scorso, quando ci sono stati presidi davanti al Ministero, la prima cosa che ci ha, diciamo, un po' stupiti era il fatto che 3 iniziative divertenze con un tavolo erano tutte scollegate, quando in verità appunto tutte le situazioni partivano dallo stesso presupposto, dalle stesse problematiche. Quindi, diciamo, ripartire nel provare a unire tutte le vertenze, le lotte più conflittuali che ci abbiamo in questo paese, può essere un primo passo per ricomporre il mondo del lavoro e ridare forza, diciamo, a ristabilire i rapporti di forza nel mondo del lavoro. Io volevo fare un ultimo passaggio con te, visto che appunto tu sei un compagno del Sicobas, noi qui da Roma partecipiamo molto alle lotte che ci sono nel mondo della logistica, che in questo momento, rispetto a quello che diciamo prima, sono delle lotte un po' particolari, perché quantomeno rispetto a quello che stiamo dicendo noi ora, che ci confrontiamo con chiusure di aziende, le lotte della logistica sono lotte che vanno a chiedere miglioramenti contrattuali, sono lotte che hanno avuto un carattere più nazionale, sono lotte dove appunto si sta sviluppando una solidarietà tra tutte le realtà di lotte, e in particolar modo a Bologna, diciamo, hanno una forza particolare. Queste lotte sono organizzate dal Sicobas. appunto correggiamento che facevo prima, che ci sembra opportuno cominciare quantomeno a avviare un confronto tra la base dei lavoratori che stanno provando a esprimere una conflittualità quantomeno. Ti volevo chiedere, rispetto a questa situazione che c'è a Bologna, se magari avete fatto un tentativo anche di confronto fra la lotta del Sicobas e dei lavoratori della logistica a Bologna, che è molto forte. Sì, vede, anche tutto quello che è successo nella logistica, perché difendono i contratti nazionali che neanche vengono rispettati nelle cooperative. Anche lì ci vuole un passo politico in più, cioè non, anche gli operai non si devono fermare a lottare per il proprio articello, ma devono capire che la lotta è più ampia, cioè è una lotta anticapitalista, è una lotta antipatronale. È quello che si deve comunque formare, questa rete di operai, che saranno facchini o saranno operai, ma comunque si devono formare per lottare una volta per sempre, creare una rete che poi possa costringere i sindacati o possa travolgere i sindacati verso una lotta che non si ferma alla contrattazione individuale del proprio stabilimento, ma che vada oltre, che vada nella denuncia oltre. Va bene, allora noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, sei stato chiarissimo, l'invito naturalmente a restare in contatto, a risentirci per i prossimi sviluppi dei lavoratori della Daidan, ma anche più in generale, più complessivamente, per avviare comunque questo processo di confronto. Io sono sempre disponibile, al di là del mio problema interno di fabbrica, ad unirmi con tutte le vertenze. Perfetto. Allora ti ringraziamo e restiamo in contatto per aggiornamenti futuri. Ok. Grazie. Grazie, grazie. Ciao, per... ciao. Salve. Allora ritorniamo in onda, prima di concludere questa puntata di Corrispondenze Operai abbiamo un ultimo collegamento e qualcuno, speriamo la maggior parte di voi ascoltatori e ascoltatrici, si ricorderà dello spazio Baby che abbiamo già sentito, la situazione delle lavoratrici, ormai ex lavoratrici, qualche mese fa, e ricordiamo che sono state mesi senza prendere lo stipendio. Nel momento in cui hanno cominciato a prendere parola su questa situazione, fondamentalmente sono state dimissionate dall'incarico, comunque sarebbe meglio dire licenziate, e noi le avevamo sentite più di una volta per farci spiegare la situazione, e visto che si sta parlando di asili nido convenzionati menzionati, finanziati da municipio e comune e gestiti da una cooperativa che in realtà per far fronte, come ci dicevano, come ci spiegavano loro, far fronte a debiti che avevano accumulato, aveva smesso di pagare gli stipendi a loro lavoratori e lavoratrici, e questa era la situazione che c'era pochi mesi fa, e loro non sono più lavoratrici. Ora è successo qualcosa e chiediamo a questa lavoratrice di spiegarci cosa è successo. Sì, ciao a tutti e a tutte, diciamo un piccolo aggiornamento insomma che riassume questa vicenda e che gli dà ancora una volta dei caratteri ancora più grotteschi insomma. Venerdì scorso due lavoratrici, quindi la coordinatrice dello spazio baby del nido e una delle lavoratrici del centro giovanile, si sono viste recapitare una mail da parte del presidente dell'associazione, il quale diceva che suo malgrado si era trovato obbligato a depositare una denuncia penale per diffamazione nei loro confronti. Una denuncia penale per diffamazione che si rifà appunto a un'intervista che facemmo in radio, che facemmo a Radio Onda Rossa subito dopo la giornata di sciopero allo spazio Beppi del 20 giugno scorso. Questa insomma una cosa abbastanza surreale appunto, perché appunto costretti a scioperare dopo mesi e mesi di mancato stipendio, costretti a denunciare una situazione di mobbing, di precarietà insomma vergognosa, dopo un po' di mesi una cosa ancora più ridicola, vergognosa, appunto grottesca, con cui l'associazione cerca in qualche modo di tutelarsi forse insomma, perché comunque le nostre vertenze dal punto di vista legale stanno andando avanti e quindi loro pensano bene di querelare le lavoratrici stesse per diffamazione nei confronti dell'associazione. Insomma, chiaramente questo ci sembra una roba vergognosa, cercano di intimorirci da una parte, di dividerci dall'altra, perché chiaramente le due lavoratrici che hanno rilasciato l'intervista non parlavano solo per loro ma a nome di tutte e tutti i lavoratori coinvolti, e insomma chiaramente noi non ci lasceremo intimidire da questa mossa, anzi rilanciamo con più forza insomma. Ricordiamo che questi due servizi sono tuttora attivi in ottavo municipio, sia lo spazio Baby che il centro giovanile, quindi ci sembrava doveroso insomma raccontare anche all'arte per radio che come si stava evolvendo questa situazione. No, va bene, noi ti ringraziamo, insomma è chiaro che bisogna fare una considerazione in merito ad una lotta che a Roma rappresenta una cooperativa di servizi appunto per gli asili eccetera, oggi che a Roma insomma soffre di una carenza insomma forte di questi servizi qua. Diventa più amaro parlarne soprattutto quando insomma alcune dinamiche si intessono in un mondo delle cooperative in cui già di per sé lo statuto cooperativo per il lavoro è nega di per sé dei diritti, poi sentire parlare appunto di lavoratrici che vengono denunciate perché parlano, perché discutono, perché levano la loro voce diventa ancora più amaro, fra l'altro appunto da chi no, insomma se dice compagno e poi fa il padrone, però insomma questa rimane una considerazione in parte personale, ma comunque è un dato oggettivo di cui discuterne e di cui appunto aumenta anche appunto come dicevo prima l'amarezza di questa vicenda. Noi naturalmente vi continueremo a seguire, questa radio vi continuerà a seguire perché rimane importante come lotta non solo dei lavoratrici, delle lavoratrici interne, scusate, alla cooperativa, ma anche sulla questione dei servizi alla città, degli asili di cui questa lotta parla. Certo. No, vabbè, infatti quello insomma che noi ci tenevamo a dire è proprio questo, che comunque un tentativo di intimidazione nei nostri confronti che sicuramente non troverà seguito, insomma la nostra lotta con associazione mobbizzatrice e sfruttatrice dei lavoratori e delle lavoratrici continuerà e niente, insomma, risentirci per le prossime mosse. Va bene, quindi ti ringraziamo sicuramente, a risentirci, ci risentiremo presto, augurandovi chiaramente il meglio e uno sviluppi positivi di questa vicenda. Ti salutiamo, come salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Corrispondenze Operaie. Abbiamo finito purtroppo in estremo ritardo, rubando circa 18 minuti al giornale radio, per cui non rubiamo ulteriore tempo. Salutiamo tutti quanti e ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo. لشکر روز خودی جینه لشکر روز خودی جینه خیر هاتن هم خیر هاتن شروانن شورشه یه بگه